Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, 4 ottobre, è una giornata importante perché verrà nominato il premio Nobel per la medicina. Vi aggiorneremo in diretta e commenteremo la notizia insieme al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Ma nell'attesa parliamo del nostro colesterolo, imputato numero uno. Basta citarlo per sentire il nostro cuore in pericolo, per attivare pensieri negativi, timori, sensi di colpa e conseguenti buoni propositi. Ma è davvero quel mostro che ci raccontano? Il colesterolo è un grasso giallo e saponoso al quale dobbiamo la vita. Se fosse una persona, si direbbe che è very important person, perché è presente nelle situazioni che contano: nella membrana delle cellule, nella guaina mielinica che avvolge le cellule nervose, dove funge da isolante e permette all'impulso nervoso di trasmettersi senza disperdersi. Ma non finisce qui. Il colesterolo si dà da fare nella produzione degli ormoni sessuali e di quelli steroidei ed è il precursore della vitamina D, indispensabile per regolare il metabolismo del calcio e mantenere in buono stato ossa e denti. Insomma, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Prova ne è che il nostro organismo è in grado di sintetizzarlo anche quando esso viene a mancare completamente nella dieta. E di colesterolo parliamo oggi insieme al professor Francesco Saverio Dioguardi, professore della cattedra di nutrizione clinica al Dipartimento di Medicina Interna, Università di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a chi ci ascolta. Insomma, una storia che assomiglia un po' a quella del dottor Jekyll e Mr. Hyde, professor Dioguardi. Io faccio fatica a capire chi dovrebbe essere Mr. Hyde, quello cattivo, e chi dovrebbe essere quello buono. In realtà il colesterolo, come è stato correttamente detto, è indispensabile alla nostra vita. E qualche volta, quando si accumula nel sangue, se non siamo capaci di gestire i valori di colesterolo, può diventare in eccesso e quindi farci del danno. Prego, s'accomodi. Tamburini, molto lieto. Prego, le sue analisi per favore. Grazie, molto gentile. Bellissime, stupende. Azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Che garbo, Verdone, 7 kg in 7 giorni, colesterolo delicatissimo. Le è mai capitato di così definire così il colesterolo leggendo magari gli esami di un suo paziente? No, in effetti decisamente no. C'è sempre da imparare. Sì. Perché aiuterebbe un po'. Sì, devo dire che ricordando il film ho l'impressione che la valutazione sui dati biochimici sia stata influenzata dall'aspetto della paziente, a cui Verdone era molto sensibile. Senta, ma traducendo il garbo in numeri. Allora, esistono delle convenzioni internazionali. Sì. Curiosamente si tende a guardare soprattutto il valore massimo di colesterolo, perché in effetti la maggior parte dei problemi riguarda un valore che superi i 200. Sì. Per convenzione internazionale si considera 200 il valore di normalità. In realtà dovrebbe essere cucito su misura per ogni individuo il valore di normalità. Molto più raro, purtroppo, è valutare se il colesterolo non sia talmente basso da essere pericoloso, cosa che si riscontra in alcune malattie, soprattutto malattie del fegato. E come abbiamo visto, valori troppo bassi, così come valori troppo alti, entrambi possono essere dannosi. Professore, andremo anche a cercare di capire perché si abbassa, ma sostanzialmente quello che ci preoccupa di più, forse perché affrontiamo solamente in parte il problema, è quando il colesterolo supera il valore soglia. E noi ci sentiamo subito in colpa perché il nostro medico ci fa un po' una ramanzina, ci mette a dieta, ci raccomanda di ridurre i grassi, di aumentare il consumo di verdure, di muoverci. Ma professor Dioguardi, quanto pesa la dieta, il tipo di dieta sull'aumento di colesterolo, o se vogliamo girarle in positivo, quanto posso far scendere il mio colesterolo mettendomi a dieta? Allora, intanto dipende da quanta parte del colesterolo è influenzato dalla dieta. Io per questo ho accennato ai valori bassi, perché dobbiamo ricordarci che la quantità di colesterolo nel sangue è molto strettamente regolata dal bilancio fra sintesi, a partire da glucosio, proteine e altri grassi diversi dal colesterolo, del colesterolo medesimo, quindi sintesi del colesterolo, e introduzione alimentare. L'introduzione alimentare, per convenzione sempre, si calcola possa influenzare del 20-25% i valori di colesterolemia totali. Quindi non si può dimezzare i valori del colesterolo soltanto non mangiando colesterolo. Anzi, in alcuni individui, togliere del tutto il colesterolo stimola la sintesi, cosicché i valori di colesterolo tendono ad aumentare. Ed è una cosa che... Quindi il danno è la beffa. Esattamente. In certi pazienti una dieta esageratamente ristretta non porta vantaggio, addirittura porta ad un aumento della colesterolemia. Quindi si va sempre di più verso una terapia, una medicina ad personam. Ma, anche così ne ho sentito dire, se misurando il mio colesterolo scoprissi che... butto a caso, 230. Lei cosa mi farebbe eliminare? Quando facciamo gli auguri di compleanno a un nostro amico e glieli facciamo cantando, cantiamo sempre la stessa canzone. Tanti auguri a te, è un classico, la conosciamo tutti. Ma peccato non avere delle canzoni dei cantautori per fare gli auguri di compleanno. Sarebbe bello avere delle canzoni scritte da loro, con la loro poetica, con la loro sensibilità. Ci vorrebbe l'augurio di compleanno di Jovanotti. Jovanotti farebbe un rap, il rap farebbe così. È tuo compleanno, quindi stai contento, ma non dimenticarti dell'inquinamento. Fa una bella festa, invita tanta gente, ma dopo non disperdere in vuoto nell'ambiente. È il tuo compleanno, dura un giorno solo, ma attento, nella torta c'è il colesterolo. Nella torta c'è il colesterolo. Non è solo la torta però, professor Diuguardi. E anche la torta. La torta contiene degli zuccheri, ma gli zuccheri sono contenuti anche nel pane, sono contenuti nella pasta e persino nella frutta. Quindi ancora una volta, quando si dice verdure, che cosa si intende? Esistono delle verdure che sono più ricche di zuccheri di altri, anche questi vanno tenuti conto. Proviamo a chiamarle un po' per nome, così vediamo. Io so che non si può più parlare di lista degli alimenti consigliati e quella degli alimenti da eliminare, bisogna ridurre, no, complessivamente l'introito calorico, e sì. Questo un po' il... Allora. Prima cosa, bisogna mangiare esattamente quello che ci serva senza eccedere, questo è il primo punto. Secondo punto, è un problema di imparare a pesare gli alimenti. Questa è una cosa molto triste per la maggior parte delle persone, però è evidente che mangiarsi una porzione di uva non è come mangiarsi una mela. Spesso, se si andasse a pesare quella che consideriamo una quantità di uva sufficiente per noi, si scopre che ha un peso di 2-3 volte superiore alla mela, che è tutto sommato un contenuto di zuccheri molto controllabile e molto minore rispetto all'uva. Il pane e la pasta, e questo è un altro degli argomenti delicati, contengono zuccheri, ma gli zuccheri, se non bruciati per fare energia, possono finire nella sintesi di colesterolo o anche di trigliceridi, l'altro nemico che accompagna il colesterolo. Quindi non solo i grassi, perché quando pensiamo al colesterolo diciamo faccio una dieta troppo grassa, troppo ricca di grassi animali. Esattamente, questo è un punto chiave, perché sicuramente devi cercare di ridurre la quantità di colesterolo introdotto, però talvolta noi pensiamo che alimenti molto grassi siano ricchi di colesterolo, invece sono grassi perché ricchi di altri grassi, per esempio di trigliceridi, e quindi finiamo per correggere la colesterolemia non perché riduciamo in maniera sostanziale il colesterolo, ma perché riduciamo la quantità di calorie e di altri grassi. Loris ci chiama dalla provincia di Sondrio e mi dà modo di ricordarvi il nostro numero verde, che è 800 24 00 24. Potete come sempre scriverci su Facebook, mandarci un'email o un messaggio al 349 238 6666. Loris, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere lì al professore in studio, io ho 53 anni, sono mediamente sportivo, però ho un colesterolo che mediamente è sui 230-240, però questo da sempre. Volevo chiedere se io stando a dieta questo colesterolo che mi ostruisce leggermente le vene ritornerà, diciamo, a come era in origine, non so, a 18 anni che non c'era. C'era, ma andava bene? Che andava bene, oppure se il danno è fatto e quindi da lì non posso più regredire, ecco. Professor Diuguardi, c'è allora, speranza. Allora, a parte che la provincia di Sondrio è abbastanza ampia, io ho una passione particolare per la Val San Giacomo, di cui conosco quindi piuttosto bene le abitudini alimentari. E Loris, mediamente sportivo, fare sport al freddo è una cosa difficile, faticosa, che fa consumare tante calorie. Il vero problema è che spesso queste vengono compensate da un'introduzione di alimenti per quantità e per qualità particolarmente ricchi di calorie, vale a dire si finisce per non bruciare tutto quello che si mangia. Se il signor Loris ha avuto un colesterolo normale per buona parte della sua vita e soltanto adesso si è alzato, io penso che possa correggerlo moderando le quantità e magari andando a parlare con un tecnico, un esperto di alimentazione, il quale lo possa aiutare anche sulle quantità, continuando sempre a fare attività fisica, probabilmente perdendo un po' di peso. Andiamo a Roma perché c'è Roberto. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, quanto marcia il suo colesterolo? 260, fino alle ultime analisi e prima delle torvastatine, quindi adesso devo rifare un controllo per vedere. Però volevo fare una domanda al professore. Sì. Ecco, e ho visto girando i canali un programma medico dove parlava appunto di stress e di endorfine. Adesso scusatemi il mio modo, non sono un tecnico. Ma meglio così, signor Roberto. Endorfine nel sangue, che se non sviluppano la loro azione, quella di mantenerci più agili, più vigili, più attenti in caso di stress, eccetera, si trasformano in colesterolo. Ho sentito una stupidaggine o no? Quindi adesso io cerco di non stressarmi più, sono diventato più buono e più calmo. Oh Roberto, secondo me questa è già la migliore terapia, no? Meno stress, più sorrisi, più benessere. Sono d'accordo assolutamente con te e con signor Roberto, questo gli allungherà enormemente la vita più di qualunque altro approccio terapeutico. Le endorfine sono dei piccoli peptidi, cioè sono dei complessi formati da aminoacidi, quattro aminoacidi, che hanno un effetto, sono prodotte nel cervello e hanno un effetto di calmare le persone, togliere i dolori, ridurre la nostra sensazione di dolore. Quindi non è che si trasformino in colesterolo. Ma quello che ha detto il signor Roberto è tutto sommato una cosa, ha percepito, diciamo, una parte del messaggio in maniera realistica. La tensione e quindi l'attivazione degli ormoni che ci fanno diventare nervosi aumentano la produzione di glucosio da parte del fegato, perché noi siamo ancora animali e mantenere alta la glicemia ci prepara a correre o scappare, combattere o aggredire la preda, oppure fuggire da un animale che ci voglia mangiare. E questo glucosio, se non consumato dai muscoli, cioè tu sei seduto ma sei teso, nervoso, hai la glicemia come per correre e non la consumi, può trasformarsi in effetto in colesterolo e altri grassi che assieme al colesterolo possono farci danno, perché non è solo il colesterolo il nostro nemico, il colesterolo insieme ad altri grassi finisce per diventare un nemico davvero maggiore per le nostre arterie. Però Roberto in un certo senso ha ragione, quindi no? il percorso è un po' tortuoso, ma alla fine assolutamente sì. Meno stress, più vita e più qualità di vita. Assolutamente sì. E tutta la macchina corpo funziona meglio. Probabilmente meno appetito per parare le proprie tensioni, si mangia meno, si vive più rilassati e quindi si hanno meno problemi di ogni genere. C'è poi la parte delle caratteristiche nostre, quanto colesterolo buono tra virgolette e quanto colesterolo capace davvero di attaccarsi alla parete dell'arteria c'è in questo 260. Certo, perché bisogna poi fare i vari distinguo e noi parleremo tra poco di colesterolo buono e di colesterolo cattivo, perché il colesterolo che abbiamo citato fino adesso si parla di colesterolo totale, che poi in realtà è una somma, ma proprio il nostro ascoltatore, facendo riferimento alle endorfine, mi fa venire in mente ancora, no? Un altro pilastro, un'altra terapia che ci aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo, l'abbiamo citata, è l'attività fisica, che aveva anche il vantaggio proprio di stimolare la produzione di endorfine. E con questo filo di fiato vorreste fare una partita? Neanche le bolle di sapone ci fate. Non siamo ancora le navi. Forza, forza, non vi fermate. Scioglietevi i muscoli. Così come siete non reggete neanche un minuto. No, scusate mister, ma modestamente il fondo atletico non ci manca. Niente più fumo, niente più alcol. Alle 9 a letto e sveglia all'alba. E questo solo per cominciare. Che fatica, però lo chiamavano Bulldozer. Questo è un estratto, l'abbiamo rubato a questo film. Per parlare di attività fisica, ce n'è una particolarmente consigliata: deve durare un certo tempo, deve essere praticata con costanza, ma quanto? I pigri, le persone che sono sedentarie, non hanno altro modo di bruciare in qualche modo, o perlomeno tenere sotto controllo il colesterolo? Sono destinate a livelli alti? Non necessariamente destinate a livelli alti. Certo è che avere una muscolatura efficiente non soltanto correla con la durata della vita, ma correla anche con la capacità di bruciare quello che noi mangiamo, essere efficienti nel bruciare quello che noi mangiamo. Purtroppo sì, quindi chi è davvero pigro, chi è refrattario a qualunque attività fisica, purtroppo è a rischio di avere più problemi di aterosclerosi a parità di condizioni genetiche, sì, quindi colesterolo buono e colesterolo cattivo di cui tu hai già accennato, rispetto dell'individuo che sia fisicamente attivo. Fare attività fisica è come un vestito, ognuno di noi ha la sua taglia e ognuno di noi deve fare quello che è capace di fare senza farsi più danni, perché attività fisica è come un farmaco, troppo è danno, troppo poco è inutile. Ma c'è un tipo, cioè va meglio la corsa o il nuoto, o basta praticarla con costanza? Perché magari una persona tra i nostri ascoltatori si trova gli esami, fa gli esami del sangue, pensa di mangiare abbastanza bene, ma non fa attività fisica, per cui potrebbe iniziare da lì, no? Per far scendere il colesterolo. Ma noi che cosa gli consigliamo di fare? Guarda Nicoletta, per uno che abbia male al ginocchio, correre per esempio può essere un handicap. In questo caso nuotare è l'ideale, o anche andare in bicicletta. Ma guarda che esistono attività fisiche non necessariamente così legate a competizioni internazionali, anche andare a ballare due volte alla settimana. Lo dice a me, professore. È sicuramente una maniera che per qualcuno può essere più piacevole che per altri. Io per esempio sono totalmente negato e quindi avrei delle grandi difficoltà, ma può essere più piacevole di altri per fare attività fisica, e quindi è raccomandabile. Ognuno ha il diritto e per certi versi il dovere, se il medico fosse abbastanza capace di vedere ampio nella vita che ci sta intorno, di trovare un'attività fisica congrua anche con il piacere di muovere il proprio corpo, non soltanto di sudare, faticare. Quindi datevi una mossa piacevole per aiutarvi a anche tenere... con la fantasia. Anche con la fantasia. Sono le 11:27, tra poco verrà assegnato il premio Nobel per la medicina, naturalmente aggiornamenti in diretta, mercati, meteo e poi di nuovo insieme, tra poco. Ed eccoci tornati insieme, 11:34, professor Dioguardi, parliamo di colesterolo e torniamo ai numeri. Di solito noi ci fermiamo ad un dato, si dice ad esempio il colesterolo alto che vola, che supera i 250, ma il valore in sé dice poco, o meglio non dice tutto, perché il colesterolo totale è una somma. Il problema si complica, ma la nostra scheda lo semplifica. Il colesterolo viene trasportato nel sangue dalle lipoproteine LDL e HDL. Le LDL hanno il compito di trasportare il colesterolo dal fegato ai tessuti, dove viene utilizzato, mentre le HDL hanno la funzione opposta, in quanto prelevano il colesterolo dai tessuti e lo riportano al fegato. Le LDL sono pericolose in quanto tendono a depositare il colesterolo sulla parete delle arterie, favorendo la formazione delle placche aterosclerotiche. Per questo la frazione LDL viene chiamata anche colesterolo cattivo. Al contrario, le HDL tendono a rimuovere il colesterolo, ostacolando la formazione delle placche. La frazione HDL è il colesterolo buono. Professore, l'avevamo anticipato, totale, buono e cattivo. E qua bisogna fare un po' di conti. Perché, professore? E anche qui, povero dottor Jekyll e Mr. Hyde, è difficile attribuire un ruolo di cattivo all'LDL, per esempio, le quali, se molto elevate, in effetti correlano con un aumentato rischio aterosclerotico. Però spesso il difetto non sta nell'LDL, ma per esempio sta nel fegato, che non è capace di prendere dalle LDL il colesterolo ed eliminarlo. E lì cosa si fa? E quindi, allora, intanto purtroppo noi abbiamo ancora molto da capire. Certi meccanismi sono stati chiarificati da relativamente poco tempo, per esempio è da relativamente poco tempo che noi siamo certi che le HDL siano costruite dal fegato e stiamo incominciando a comprendere quali siano i meccanismi che regolano la sintesi delle HDL medesime. Breaking news. Un'interruzione per annunciare che è stato assegnato il premio Nobel per la medicina, è stato assegnato a Robert Edwards, padre della fecondazione in provetta. Vedremo ulteriori aggiornamenti e più informazioni nel corso della trasmissione e nel prossimo GR. Ce l'abbiamo fatta, eh? È fantastico. Allora, assegnazione del premio Nobel, tra poco lo commenteremo con il professor Giuseppe Remuzzi. Noi continuiamo a parlare di colesterolo, intanto che facciamo il collegamento con il Mario Negri di Bergamo. E intanto, vede, la medicina, abbiamo tanto da scoprire, ma la medicina va avanti. Sì, quindi dal fatto puramente descrittivo di aver capito che chi abbia le HDL basse ha un maggior rischio rispetto a chi ha le HDL alte, essendo quindi le HDL, avendo noi capito che le HDL sono protettive per questa via, siamo andati via via, pian piano chiarendoci i meccanismi tramite i quali le HDL ci proteggono. Ora, purtroppo noi non abbiamo farmaci che sostanzialmente siano capaci di aumentare il colesterolo le HDL, esattamente. Però ci sono... Noi sappiamo che l'esercizio fisico è un farmaco che alza le HDL, ecco, questo è l'unico vero farmaco. Ci sono alcuni elementi che dicono che moderate quantità di alcol possono aumentare le HDL, anche se la cosa è controversa, ma sicuramente l'esercizio fisico ci fa un sacco di bene. Alessandra ci chiama da Trento, 800 24 00 24. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'opportunità che offrite a tutti noi. Io volevo chiedere che influenza possono avere gli ormoni tiroidei T3 e T4, in particolare il TSH, sui valori del colesterolo, quando essendo stata avendo avuto la trasformazione della tiroide su totale in terapia sostitutiva. Cioè, se bisogna ricorrere ad aggiustare, perché credo di aver sentito che il TSH dovrebbe essere un po' altino. Allora Alessandra, già in una puntata sulla tiroide avevamo capito insieme al professor Pontecorvi che la tiroide in qualche modo influenza anche i valori del colesterolo, ci mette lo zampino. Infatti di fronte ad un'ipercolesterolemia è opportuno dare una controllatina alla tiroide. Professor Dioguardi, ecco, perché? Allora, per spiegare a chi ci ascolti e alla gentile signora Alessandra un pochettino come sono i problemi, dobbiamo paragonare la tiroide alla manopola con cui noi regoliamo il gas della cucina. Questa manopola può alzare o ridurre l'intensità della fiamma e noi consumiamo più o meno gas a seconda se la fiamma sia più bassa o più alta, evidentemente. Ecco, la tiroide regola il consumo a scopo energetico di quello che noi introduciamo, quindi regola la quantità di sostanze, zuccheri o grassi principalmente, che vengono usati per fare energia. Quindi quello che va in energia non può andare in sintesi. Quindi quando la tiroide abbassa la sua capacità di regolare la produzione energetica, ecco che sostanze che normalmente andrebbero consumate vanno a finire nella sintesi del colesterolo. Quindi tiroide pigra? Colesterolo può alzarsi, Quando il problema si fa serio e il colesterolo è ingovernabile bisogna ricorrere ai farmaci, le statine. Però prima di affidarci alla chimica, dal mondo vegetale ci vengono in aiuto alcune sostanze, tutte le abbiamo sentite nominare: fitosteroli, polifenoli, abbiamo sentito anche parlare di un'altra classe, di un altro gruppo, gli omega 3. Ma esattamente chi sono, dove si trovano e quanto ci aiutano? I fitosteroli sono sostanze simili al colesterolo ma di origine vegetale. In natura si trovano negli oli vegetali, nella frutta secca e in alcuni semi e legumi. Come integratori di solito sono inseriti nello yogurt e nel latte e dunque sono facilmente assimilabili. Diminuiscono l'assorbimento del colesterolo a livello intestinale e possono portare a una sua diminuzione di circa il 10%. I polifenoli sono le molecole antiossidanti più presenti nel mondo vegetale, utili nel prevenire appunto l'ossidazione delle lipoproteine e quindi nel ridurne l'effetto nocivo. Dei polifenoli fanno parte per esempio il resveratrolo, presente nella buccia dell'uva, nel vino rosso e nelle arachidi, ma commercializzato come integratore, le catechine del tè e la quercitina delle cipolle. Gli omega 3, noti anche come olio di pesce, sono una miscela di grassi insaturi che, pur avendo un effetto limitato sul colesterolo, un lieve aumento dell'HDL, abbassano i trigliceridi anche dal 25 al 30% e perciò possono essere molto utili per ridurre il rischio cardiovascolare. Saluto il professor Cesare Sirtori, presidente della Società Italiana di Nutraceutica all'Università degli Studi di Milano e preside della Facoltà di Farmacia. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, professore, chi, quando e come si deve farsi o può farsi aiutare da questi, possiamo chiamarli integratori? Beh, intanto voglio fare una correzione. All'apertura di trasmissione avete detto che il colesterolo è una sostanza saponosa. Sì. È molto sbagliato. Il colesterolo è un cristallo. Se lei compra del colesterolo, non pensi di trovare una specie di olio. Trova tanti aghettini bianchi che sono estremamente dannosi sulle arterie. Questo è il vero problema del colesterolo. Di recente è stato descritti dei cosiddetti inflammasomi che sono nelle arterie, che sono attivati dai cristalli di colesterolo e danno la placca e danno l'infarto. Quindi il colesterolo, se fosse saponoso, sarebbe innocuo. Purtroppo non lo è. Purtroppo non lo è. E questo è forse un aspetto poco noto o poco studiato e poco valutato anche dai medici. Va bene. Per quanto riguarda i fitosteroli, sì, sono sostanze, come si diceva, naturali, cioè sono sostanze presenti in vari elementi, anche, per esempio, incredibilmente, anche nei crostacei, ci sono anche lì. Peraltro i fitosteroli di uso più comune sono quelli che derivano dai vegetali e vengono incorporati per esempio in yogurt, sono sostanze di larghissimo uso di commercializzazione libera e abbassano, come diceva correttamente la scheda precedente, il colesterolo più o meno del 10%. Sono utili, in alcuni casi hanno effetti addirittura sorprendenti. Noi abbiamo una casistica molto, molto ampia di pazienti che prendono questi prodotti, in alcuni ci sono risposte incredibilmente efficaci, in altri quasi niente. Professore, posso intanto leggerle qualche messaggio? Ci scrive ad esempio Anna Maria: mangiando la lecitina di soia si abbassa il colesterolo? No, no, per zero. E il semi di lino? Semi di lino molto poco. Sentiamo intanto Luciano che ci telefona da Massa Carrara. Buongiorno Luciano. Buongiorno a lei Nicoletta. In parte purtroppo avete, o meglio, grazie di aver già risposto alla mia domanda, perché io avevo chiesto informazioni sui fitosteroli. Io li consumo da un po' di tempo, non regolarmente, un po' saltuariamente, perché ho un colesterolo un po' al limite, diciamo, 200, diciamo che varia da 200 a 215, 218, quello totale. Il mio problema è che ho il colesterolo buono piuttosto basso, che va intorno ai 45-48 milligrammi, intendo. Volevo capire, ora lasciando perdere il discorso dei fitosteroli, sì, se questo colesterolo basso è influenzato da un problema epatico. Io nei miei esami che faccio regolarmente non ho riscontrato disturbi epatici, l'unico mio problema è appunto questo colesterolo. Vorrei capire come fare per cercare di aumentarlo, se possibile, quello buono. Quello grazie. Buono va aumentato, professor Sirtori, ma come si fa? No, il signore non è, chiedo scusa, ma il signore non ha fatto, non è basso, perché nel maschio si prescrive che il colesterolo buono debba essere oltre 40, lui è oltre 40, oltretutto il totale non è particolarmente basso, quindi non, questo discorso non ha molto senso, mi sembra che lui stia bene così, per quel che posso sapere. Tante volte. E poi un ultimo aspetto che a volte un po' mi disturba, il fegato. Se il fegato è molto malato, come diceva poco fa il professor Dioguardi, il colesterolo scende. Per avere il colesterolo alto occorre un fegato molto ben funzionante. Quindi questo va ricordato, inutile dire il fegato non c'entra niente, poverino, il fegato quando non funziona, quando si ha la cirrosi, il colesterolo crolla a valori minimi. Per questo avere anche il colesterolo troppo basso non è un quando, buon indicatore. Cioè, il colesterolo troppo basso in una persona anziana, diciamolo apertamente, se un ottantenne che improvvisamente ha un calo da 300 a 180, 90 volte su 100 ha un cancro. Professore, allora quindi attenzione, il valore del colesterolo se precipita può essere un segno preoccupante che comunque va indagato. Adesso noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Torniamo subito dopo insieme al professor Sirtori, insieme al professor Dioguardi. Tra poco commenteremo la notizia del premio Nobel per la medicina che è stata assegnata a Robert Edwards, padre della fecondazione in provetta, insieme al professor Remuzzi. Tornate, restate. Ed ecco, siamo tornati insieme. Fioccano dei messaggi, ad esempio le uova. Quante alla settimana possiamo permettercele? Ci aggiunge anche un ascoltatore, ma faccio anche attività fisica e le preferisce con il bacon, professor Diuguardi. Bacon non è esattamente la cosa più salutare che esista sulla faccia della terra, perché contiene parecchi grassi saturi. Ma uno fa una bella corsetta. Ma le uova proprio non c'è nessun problema, non hanno un contenuto di colesterolo così spaventoso per un singolo uovo. Se uno svolge attività fisica, proprio non c'è nessun motivo per cui non debba mangiarsi 2 o 3 uova alla settimana. Sono ricchissime di tanti elementi fondamentali per la nostra vita. Professor Sirtori, noi abbiamo parlato dei fitosteroli, polifenoli, abbiamo parlato anche degli omega 3, ma ci aiuta a capire come inserirli nella nostra dieta? Se c'è un modo, bisogna fare dei cicli, bisogna prenderli a stomaco pieno, a stomaco vuoto, quando il colesterolo è borderline, o prevengono magari il fatto quando stiamo facendo un cambiamento, no, di abitudini alimentari, insomma, quando e come? I fitosteroli, se si interpretano come un trattamento, vanno presi sempre, tutti i giorni, quindi nessun ciclo, perché se si fanno i cicli il colesterolo risale, è del tutto inutile, anzi anche pericoloso. Quindi se uno decide di mangiare i fitosteroli, li mangia, e sono degli alimenti, ci sono negli yogurt, e per chi è allergico o non sopporta i latti in generale, ci sono anche delle polveri che si sciolgono, quindi sono ormai diverse tipi di formulazioni che possono essere scelte a seconda delle necessità. Okay. Comunque vanno presi sempre. L'idea del ciclo, come per i farmaci, è una colossale idiozia, perché di fatto non corregge niente. Non è che il colesterolo guarisce, è come la pressione, rimane alto. Ok, torna a essere già alto. Questa è una bella indicazione, abbiamo capito. Andiamo ai polifenoli. I polifenoli sono sostanze naturali presenti in vari buccia oli. Dell'uva. Uno dei più ricchi, senza andare a cercare l'uva, è proprio l'olio d'oliva, che contiene prodotti come l'oleoropeina, lo stesso resveratrolo ed altri, i quali sono antiossidanti. Naturalmente il discorso dell'antiossidante è un discorso abbastanza dubbio, nel senso che se si va a guardare non vi sono dei dati poi così convincenti a seguito dei quali noi dovremmo consumare antiossidanti, cioè gli studi clinici sui grandi antiossidanti, vitamina E, A, eccetera, non ho mai dato grandi risultati. Di recente però ho visto uno studio molto curioso in cui si è visto che atleti anziani che pedalano e prendono antiossidanti hanno un obiettivo miglioramento del circolo alle gambe e della fosfocreatina. Uno studio americano-francese bellissimo che dimostra il primo dato, a mio giudizio, incontestabile sul beneficio degli antiossidanti, perché se lei va a sentire, molti colleghi diranno che gli antiossidanti sono una presa in giro giù di lì. Per il resveratrolo è una sostanza curiosa, perché fa un po' di tutto. Si dice adesso che ringiovanisca, è tutto da dimostrare comunque. Beh, per chi ci crede, chi ci crede può andare bene. Senta, professore, prima di collegarci al professor Remuzzi per commentare. No, c'era Friedman, mio amico, il candidato. Lei faceva il tifo per lui? Sì. E invece ha vinto, però è contento che abbia vinto Robert Edwards? No, la leptina è quella che si associa all'obesità. La scoperta, vabbè, pazienza. Possiamo tentare il prossimo anno? Auguri. Senta, professore, rapidissimamente, proprio un flash, ci parla di questa statina vegetale? Dico bene se la definisco così, il riso allora, rosso? La statina vegetale è la monacolina K, che è presente nel Monascus purpureus, che è un fungo che contamina cronicamente un riso, che si chiama appunto riso rosso, perché è purpureus. La monacolina ha un'attività, se la si prende in questi prodotti che contengono il Monascus, e sono tanti in commercio, pari a circa 4 mg di pravastatina, cioè 4 mg di una statina di sintesi. Quindi in alcuni pazienti il riso rosso abbassa il colesterolo poco meno di una statina, perché sono molto sensibili, altri sono poco sensibili. Di recente viene associato un altro prodotto, si chiama berberina, che ha un meccanismo diverso, un prodotto cinese della Coptis Chinensis, che veniva usato per le infezioni intestinali. Di recente si è visto che attiva il metabolismo del colesterolo, i cosiddetti recettori LDL, in modo abbastanza efficace, per cui messi assieme i due finiscono per agire poco meno di una statina di sintesi. Ci sono vari prodotti che li contengono entrambi. Professore, controindicazioni? Dunque, controindicazioni del Monascus: essendo una statina pur naturale, è una statina che può avere in rari casi degli effetti secondari delle statine, che sono i più classici, il classico dolore muscolare, che vediamo in numero crescente di persone. Fortunatamente è più raro, anche perché il dosaggio è più basso e forse il metabolismo è un po' diverso. In linea di massima è una statina più debole ma meglio tollerata. Quindi questo vuol dire che comunque a prescriverla deve essere il medico? È bene che sia il medico. Assolutamente. E nel caso in cui si verificassero questi dolori muscolari, e quali altri campanelli d'allarme possiamo... Se vengono dolori muscolari, il malato di solito smette da solo. Dice, lei ha fiducia. Professor Dioguardi, ha fiducia il lamento guida al medico. Sostanzialmente sì. Resta il fatto che ci sono... buona regola sarebbe che ogni volta che si introduce una medicazione potente come le statine, un controllo a distanza di tempo di quei parametri che il medico conosce andrebbe fatto, che assolutamente. Che sono, professore? Le transaminasi essenzialmente, la creatin fosfochinasi. Ci sono però delle persone che sono proprio non possono prendere le statine pur avendone bisogno, è vero? Assolutamente, hanno una tossicità da statine anche per quantità estremamente piccole, per le statine meno efficaci. Molto... E in questi casi? In questi casi la statina va assolutamente tolta e vanno utilizzati farmaci alternativi come i chelanti, le resine chelanti del colesterolo, che agiscono riducendo l'assorbimento del colesterolo medesimo. Poi ci sono altre, la dieta, l'attività fisica, è meglio tenersi il colesterolo alto in quel caso. Professor Dioguardi, ci sono delle professor Sirtori, ci sono delle novità in cantiere? Sì, c'è una novità importante, si chiama l'omitapide, è un prodotto che agisce con un meccanismo diverso, cioè blocca l'eliminazione della lipoproteine dal fegato, tendono ad essere un po' trattenute, e agisce in pazienti che non rispondono alle statine, in particolare quelli che hanno colesteroli stratosferici 700-800, ne abbiamo alcuni casi trattati a Milano con risultati francamente sconvolgenti della potenza del prodotto. Il prodotto era stato messo un po' in crisi perché questo permanere dei grassi nel fegato tende a dare il fegato grasso. E infatti a breve scadenza aumenta il grasso epatico, però per qualche motivo dopo 6-8 mesi tende a ridiscendersi e portarsi alla norma, per cui a lungo termine il prodotto funziona. Dico subito che, siccome arriveranno telefonate a me, il prodotto è riservato a casistiche estreme per il momento. Ok. Professor Sirtori, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. E saluto il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, a cui affidiamo il compito di commentare il Nobel della medicina. Professor Remuzzi, buongiorno. Buongiorno. Robert Edwards ha vinto. Sì, una cosa molto bella, molto giusta, importantissima. Lui e Patrick Stipto, che è morto e non ha potuto avere il premio Nobel. Uno dei segreti per il premio Nobel è non morire, non muore, non si può avere più. E loro sono inglesi e hanno messo in piedi il sistema per fertilizzare in vitro gli ovuli. E questa tecnica ha reso possibile, per esempio, la nascita, la prima nascita della prima bambina in provetta, di cui i giornali hanno parlato tantissimo nel 78. Louise. Era Louise Brown. Sì. E da allora tantissimi bambini sono potuti venire al mondo grazie a questa tecnica, che consente la fertilizzazione di un ovulo con uno spermatozoo in vitro, come si dice, cioè in provetta, in casi in cui uno dei due genitori non sia in grado di procreare per vie naturali, quindi aiutano, insomma, una cosa così bella come è la nascita di un figlio. E poi le ricadute di questa tecnica sono straordinarie, perché per esempio adesso questa tecnica consente di evitare che certi bambini nascano già malati di malattie gravi o anche gravissime. Per esempio, quando noi abbiamo fatto la fertilizzazione in provetta e abbiamo un embrione di 8 cellule, ne possiamo prelevare una per studiarla in laboratorio e trasferire nell'utero della madre soltanto gli embrioni sani. Con questo sistema già oggi si può evitare di trasmettere ai figli malattie come la fibrosi cistica, la talassemia, l'anemia falciforme e poi certe forme familiari, per esempio di cancro al seno e all'ovaio. Qui ci sono discussioni etiche che io personalmente trovo inappropriate. In certi paesi questo non si può fare, ma in realtà è uno dei miracoli della medicina, è uno dei passi avanti più importanti. Dopo Louis Brown, in questo centro della riproduzione umana, soltanto quello di Edwards, sono nati più di 1000 bambini e altri ne sono nati in tutte le parti del mondo. Professore Muzzi, grazie per essere stato con noi e per questo commento, per averci così spiegato questa notizia e l'assegnazione di questo premio. Io la saluto, mercoledì sarà in trasmissione insieme a noi il professor Remuzzi, saluto il professor Dioguardi, grazie a voi. Insomma, festeggiamo un Nobel per la medicina, un Nobel, un premio assegnato molto importante. Noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere.